un clima, un pessimo clima. Chiaramente non è un clima che nasce oggi con il governo Lega 5 Stelle, è un clima che è costruito nell'arco degli ultimi 20 anni, nell'arco di passaggio di questo neoliberismo autoritario in cui di fatto si è distrutto dentro una serie di politiche penali qualsiasi idea di Stato sociale. E in tutto questo, e chiaramente oggi serve necessariamente da un lato un'ulteriore criminalizzazione di una serie di soggettività, quindi parliamo di migranti, dei poveri, dei marginali, e dall'altro lato necessariamente bisogna costruire intorno ad esso un clima di consenso sociale e quindi far interiorizzare all'interno dell'opinione pubblica che il pericolo proviene da chi contesta o da chi è più povero di te, e dall'altro lato, come dire, incutere paura, cioè, e far sì che in tutto questo anche le controinchieste, anche il lavoro di tanti giornalisti che con tanta intelligenza fanno un lavoro sociale di inchiesta deve essere messo a repentaglio. Insomma, oggi è difficile anche esprimere il dissenso anche in termini di fattivo di manifestazioni. Anche sabato scorso nella manifestazione a Roma i pullman sono stati fermati, identificati. Ecco, viviamo letteralmente in un clima dove ormai tutto è incentrato alla costruzione del nemico, alla costruzione della paura, e di fatto oggi quelli che sono i dettami costituzionali sono stati totalmente scalzati da una nuova costituzione materiale. Questa costituzione materiale è fondata sull'emergenzialismo, è fondata nella costruzione del nemico e nella percezione della paura. Le faccio una domanda più specifica sul no di Salvini al numero identificativo per i poliziotti. Lei come considera questa posizione del ministro degli interni? È una posizione da un lato che deve pagare dazio a quelli che sono stati gli impegni presi con una serie di sindacati di polizia, chiaramente da sempre schierati non solo contro i codici identificativi, ma schierati anche per esempio contro la legge della tortura. Parliamo di sindacati come il COISP, il SAP, non a caso il SAP ha eletto il proprio co-segretario Tonelli nelle file della Lega Nord. Ma dall'altro lato è che oggi serve una polizia sempre più ademocratica, una polizia dove necessariamente servono persone che devono reprimere anche violentemente chiunque esce fuori da questo coro unanime che questo, cioè, e che non è dentro quelle che sono le direttive imposte dai governi non solo nazionali, di cui il dissenso, la contestazione sono visti non come un qualcosa di crescita di democrazia, ma un pericolo invece per la democrazia. I codici identificativi ormai li hanno in tutte le polizie europee, persino la Turchia, che sappiamo bene il grado di democrazia qual è. L'Italia non lo vuole perché chiaramente vuole garantire oggi ulteriore impunità alle forze dell'ordine, che sappiamo bene come hanno agito nel corso di questi anni e sappiamo bene soprattutto come sono formate. Oggi noi facciamo i conti con una polizia che è formata da membri che sono stati arruolati dopo aver partecipato a missioni militari all'estero, e sappiamo che questi vengono formati soprattutto nell'ambito di contesti di guerra dove la tortura viene praticata quotidianamente. Quindi finiamola di dire che i casi di Federico Aldrovandi, di Stefano Cucchi o le violenze di piazza sono frutto di poche mele marce. È invece un disegno ben preciso di una polizia autoritaria, violenta, di un qualcosa e di cui il potere politico, in modo particolare oggi Salvini, Di Maio, garantiscono questa impunità.